Benvenuti a tutti, puntata numero 9 di NBA Week, la trasmissione settimanale sulla stagione NBA 2016-2017 su Radio Big World. Iniziamo subito con il mashup della settimana appena trascorsa. La nostra settimana è iniziata l'11 di gennaio. Per prima cosa però, diciamolo, occhio ai Philadelphia 76ers. La squadra di Joel Embiid ha iniziato la settimana vincendo 3 partite consecutive. Il probabile rookie dell'anno stesso dichiara addirittura che la squadra può anche puntare a playoff e che l'impresa potrebbe non essere impossibile se Simmons riuscisse a rientrare, cosa per la verità che pare assolutamente improbabile almeno per quest'anno, ma non si sa mai. In ogni modo, l'entusiasmo è contagioso nei giovanissimi Philadelphia 76ers e la gente a Philadelphia torna a gremire il parasport. La seconda di una miniserie di 3 vittorie consecutive avviene proprio l'11 di gennaio contro i New York Knicks, 98-97. Ci sono 21 punti e 14 rimbalzi in 27 minuti per Embiid, 16 per Yasova e 13 per Noel partendo dalla panchina. Dall'altra parte 28 di Mello, 25 di Rose, solo 3 su 10 dal campo per un pessimo Porzingis. New York in caduta libera, lo vedremo, ne parleremo anche più avanti. Il tiro della vittoria in questa partita lo vedrete nella selezione delle immagini che posteremo nel blog post settimanale tutti venerdì nel nostro blog www.medium.com/NBAweek. Il tiro appunto della sirena per i Sixers è di TJ McCollum. I Sixers agguanteranno poi la terza vittoria consecutiva il 13 di gennaio contro gli Hornets per 102-93. Anche stavolta Embiid guida la carica con 28 punti e 8 rimbalzi, sempre restando sotto i 30 minuti di minutaggio. Dalla panchina ci sono anche 15 punti di Saric e 11 per Sergio Rodriguez. La mini striscia si chiude poi contro i Washington Wizards il 14 di gennaio, 109-93 per Washington. Non c'è Joel Embiid in campo, rientra Okafor che chiude comunque con 26 punti e 9 rimbalzi, 18 anche per Yasova, però Philadelphia tira male, soccombe di fronte ai 35 punti e 7 assist di John Wall e i 20 di Bradley Beal in un quintetto, quello di Washington, che chiude tutto in doppia cifra realizzativa. In ogni modo, Philadelphia vince la sesta delle ultime 8 partite nel Martin Luther King Day del 16 di gennaio, battendo i Bucks di un Antetokounmpo da 23 punti. Il solito Embiid in doppia-doppia con un minutaggio sotto i 30 minuti, 22 punti, 12 rimbalzi, alcune giocate spettacolari, andate a rivedervele. Si tratta di una rincorsa playoff che ora come ora appare come un vero e proprio miracolo, come un qualcosa di illogico, lo sappiamo benissimo. Malgrado questo però il rinnovato entusiasmo portato soprattutto da Embiid, un giocatore che ancora, lo ripetiamo, non va oltre i 30 minuti di minutaggio a partita, rappresenta un fattore positivissimo. Considerando la futuribilità del roster, le mancanze attuali e gli eventuali accorgimenti possibili a livello di mercato che Philadelphia può fare, ricordiamoci che è in discussione la partenza già nella finestra di mercato in corso di Noel o di Okafor, il futuro per Philadelphia appare molto molto molto radioso. Per questo Philadelphia questa settimana è il nostro squadrone della settimana, anche e soprattutto per simpatia ed incoraggiamento. Torniamo al mashup, ripartiamo. 11 gennaio, prestazione della notte di Isaiah Thomas con 38 punti nella vittoria dei Celtics sui Wizards di un Bradley Beal da 35. Non male anche James Harden con 33 punti, 6 rimbalzi e 12 assist, ma Houston perde contro un'altra squadra che sta dando segnali molto positivi in questa fase, i Minnesota Timberwolves. In questa partita Karl Anthony Towns 23 punti e 18 rimbalzi. 12 gennaio è la notte della partita di Londra in cui i Denver Nuggets surclassano gli Indiana Pacers segnando 140 punti. Pacers morti e sepolti già di ritorno dall'halftime. Partita in realtà piuttosto bruttina, non certo da ricordare se non per qualche giocata. Si fa comunque indubbiamente vedere Nikola Jokic con 22 punti, 10 rimbalzi e 7 assist. Un giocatore che in questo momento è il numero uno della franchigia del Colorado. Ottima, anzi buona prova anche per Danilo Gallinari con 18 punti. Nella stessa notte Devin Booker dei Suns ne mette 39 nella sconfitta dei Phoenix contro i derelitti Dallas Mavericks. Derelitti non troppo, lo vedremo più avanti. Golden State contemporaneamente abbatte i Pistons di 20 punti con il solito trio sugli scudi, 25 per Kevin Durant, 24 per Stephen Curry, 23 per Klay Thompson. Ci sono anche però 13 assist per Draymond Green. 13 gennaio, Timberwolves, lo abbiamo appena detto, sono in un apparente stato di grazia. Battono gli Oklahoma City Thunders con il solito Towns pazzesco da 29 punti, 13 rimbalzi. Dall'altra parte, Russell Westbrook va ancora una volta in tripla doppia, con 21 punti, 11 rimbalzi e 12 assist. Anzi, andrebbe addirittura in quadrupla doppia se si contassero anche le palle perse, che sono 10. Riesce a tirare con 7 su 23 dal campo, 1 su 10 da 3. Insomma, come giocare male pur chiudendo in tripla doppia? Solo Russell Westbrook può farlo. 14 gennaio, Anthony Davis chiude con 36 punti e 14 rimbalzi, ma i Pelicans perdono contro i Bulls di Jimmy Butler, che ne mette 28 con 8 rimbalzi e 6 assist. A proposito di Global Games, a Città del Messico gli Spurs perdono incredibilmente contro i Phoenix Suns. Devin Booker ne segna ancora 39, un punto in più rispetto a Kawhi Leonard, che chiude con 38 per gli Spurs. I Suns se la portano a casa 108 a 105. Rivincita poi del derby di Natale tra Clippers e Lakers, con i Clips che si portano a casa la partita grazie a una prova mostruosa di DeAndre Jordan con 24 punti e 21 rimbalzi. Ci sono anche 20 punti e 13 assist per Chris Paul, che però purtroppo si è infortunato durante questa settimana, pare starà fuori per 6-8 settimane. Domenica 15 gennaio c'è uno Giannis Antetokounmpo da 33 punti nella sconfitta però di Milwaukee contro gli Atlanta Hawks, che trovano 20 punti con 4 su 5 da 3 di Mike Dunleavy direttamente dalla panchina. Houston segna 137 punti di squadra e batte i Nets. Harden va in tripla doppia con 22 punti, 11 rimbalzi e 11 assist. Giocano anche i Thunders, e secondo voi qualcun altro potrà essere andato in tripla doppia in questa notte? Esattamente, c'è andato pure Russell Westbrook, il solito, anche piuttosto bene a giudicare dalle statistiche, perché chiude con 36 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. OKC batte Sacramento. Chicago torna alla vittoria grazie ai 31 punti di McDermott su una delle squadre forse più bipolari della stagione, i Memphis Grizzlies. I Knicks, in crisi profonda, perdono ancora, stavolta contro i Raptors 116 a 101. Si tratta dell'ennesima sconfitta per New York, lo vedremo, continueranno a perdere anche più avanti. Ci sono segnali di tensione che emergono anche attraverso le parole di Carmelo Anthony dopo questa partita, che sembra in rotta con Phil Jackson. Parte quindi il fantabasket. Se Carmelo Anthony volesse andarsene, dove potrebbe andare? Questo è il domandone. Si parla di due destinazioni graditissime. Una è Cleveland, che appare piuttosto improbabile, l'altra i Los Angeles Clippers. Qui uno scambio con Blake Griffin potrebbe anche avere una punta di realismo. Addirittura oggi c'è chi parla di uno scambio a tre che coinvolgerebbe anche i Los Angeles Lakers, una roba che riguarderebbe anche Ingram e Clarkson. Staremo a vedere. Andiamo avanti ed arriviamo al Martin Luther King Days il 16 di gennaio. Tutti aspettano la partita delle partite. Cleveland Cavaliers contro Golden State Warriors, la principale rivalità odierna. Il rematch della doppia finale NBA degli ultimi due anni. La gara di ritorno stagionale dopo la vittoria nella notte di Natale di Cleveland sulla sirena è in rimonta, con quel canestro che ricorderete tutti di Kyrie Irving. Stanotte e stavolta si gioca all'Oracle Arena e non c'è assolutamente partita. Fin dal primo quarto Golden State tende a volar via, chiudendolo 37 a 22. Nel secondo quarto gli Warriors segnano la bellezza di 41 punti. Cleveland tira malissimo per tutta la partita, gioca poco di squadra, prova soluzioni personali. Si tratta della quinta partita in trasferta ad Ovest e forse per colpa della stanchezza, forse per colpa dell'ambiente ostile, chiudono con il 35% dal campo e il 26,5% da 3. I Warriors tirano meglio restando sul 50% dal campo e il 44% da 3. Soprattutto giocano molto più di squadra, stravincendo la sfida degli assist totali per 37 a 11. La chiave è anche nell'aggressività difensiva dei Golden State Warriors nel secondo quarto, che permette loro di forzare numerose palle perse attraverso recuperi o stoppate e ripartire per finalizzare dall'altra parte. È così che gli Warriors scavano il solco decisivo, malgrado un terzo quarto meno prolifico che potrebbe riaprire le speranze dei Cavs, ma che di fatto racconta una partita già chiusa. Stephen Curry chiude con 20 punti e 11 assist, 10 li aveva messi già nella prima frazione. 21 punti per Kevin Durant, tripla doppia per il solito leone Draymond Green con 11 punti, 13 rimbalzi e 11 assist. 26 per Klay Thompson, 14 per un essenziale Andre Iguodala proveniente dalla panchina. Dall'altra parte Kevin Love chiude con 1 su 6 dal campo in solo 16 minuti, LeBron con 20 punti e 6 su 18 dal campo, Kyrie Irving con 6 su 19 per 17 punti. Diciamo che nei Cleveland Cavaliers si salva solamente Imam Shumpert, che parte in quintetto e chiude con 15 punti e 9 rimbalzi, 11 punti anche di Kyle Korver con 3 su 8 da 3 punti. Nella stessa notte New York continua a perdere, è sempre più una polveriera considerando i già detti dubbi rimbalzanti su il futuro di Carmelo Anthony. Nel Martin Luther King Day Anthony ne mette 30, ma i Knicks perdono di nuovo e stavolta in casa all'ultimo tiro contro gli Atlanta Hawks. Il canestro della vittoria di fatto lo segna Schröder, che chiude con 28 punti a una manciata di secondi dalla fine. Melo però ha in mano l'ultimo tiro, la palla incredibilmente non entra per un tiro tutto sommato in una posizione piuttosto comoda. Precedentemente al tiro di Anthony era stata decisiva la difesa di Paul Millsap sulla penetrazione di Derrick Rose. La prestazione della notte nel Martin Luther King Day sicuramente quella di Nikola Jokic, che nella vittoria dei Nuggets sui Magic chiude con 30 punti, 11 rimbalzi, 5 assist e, da non dimenticare, il solito Isaiah Thomas che ne mette 35 nella vittoria di Boston su Charlotte per 108-98. 17 dicembre, DeRozan ne mette 36 nella vittoria dei Raptors sui Brooklyn Nets, Harden, sconfitto contro gli Heat, chiude con l'ennesima tripla doppia mostruosa da 40 punti, 12 rimbalzi e 10 assist, Miami invece ha un Dragic in quasi tripla doppia, con 21 punti, 8 rimbalzi e 8 assist, sempre sugli scudi Jokic a Denver che vince di nuovo e stavolta contro i Lakers, 29 punti e 15 rimbalzi per lui, 34 anche per Kawhi Leonard nella vittoria degli Spurs sui Minnesota Timberwolves, che hanno un Towns da 27 punti e 16 rimbalzi, e infine una vittoria di un punto dei Dallas Mavericks sui poveri Chicago Bulls, 99-98. I Bulls perdono anche questa in casa con una delle squadre che apparentemente starebbero peggio nella Lega, o perlomeno in lieve fase di risveglio momentanea. Si tratta infatti questa della loro terza vittoria consecutiva, complice anche il ritorno di un Dirk Nowitzki che in questa partita ha chiuso con 10 punti e 10 rimbalzi. Ci sono oltretutto 20 punti per Harrison Barnes, 18 per Seth Curry, il fratellino di Stephen Curry, entrambi figli d'arte del buon vecchio Del Curry che tutti presumo conoscerete più o meno bene, soprattutto in conseguenza al figlio più famoso appunto Stephen. Ultime azioni della partita, sul 98-96 per Chicago era stato segnato un canestro che sembrava decisivo dal solito Jimmy Butler, penetrazione di Deron Williams che scarica fuori a Wesley Matthews per la tripla del più uno. Ultimissima azione Bulls però con poco più di 10 secondi da giocare, Butler lavora in palleggio, la passa però a Dwayne Wade nell'angolo che obiettivamente sembra quasi non aspettarsela, il tiro di Wade andrà fuori, i Mavs passano a Chicago. Ad oggi Chicago ha un record di 21 vinte e 22 perse, sembra il loro destino quello di mantenersi intorno al 50% di vittorie, ma come sappiamo a inizio anno la squadra aveva ben altre ambizioni, o perlomeno ci sperava. La situazione appare analoga quasi con quella dei New York Knicks, per quanto questi abbiano un record ancora più negativo e si trovino in un momento dove non gli va veramente bene niente. Come a New York con Carmelo Anthony, la principale stella dei Bulls, Jimmy Butler, è al centro di voce di mercato da giorni. Entrambi gli spogliatoi appaiono più da fuori, molto più vicino a una polveriera che ad una situazione di armonia. Come detto inizio anno, entrambe le squadre, a mio avviso, avevano, cambiando tanto, potenzialmente avuto la possibilità di poter sperare di far bene. Da una parte, in caso che la crescita di Porzingis si fosse perfettamente adattata e amalgamata con le possibilità di Noah e Rose, i nuovi arrivati. Dall'altra, nel caso che Butler fosse finalmente diventato il leader conclamato della squadra, raggiungendo dei livelli accettabili di alchimie con i due nuovi arrivati Rondo e Wade. In casa Chicago, le statistiche di Butler parlano da sole e sono comunque positive. L'esemplificazione però di una pessima struttura di mercato è sicuramente il flop di Rajon Rondo, probabilmente partente. A New York i già detti dissapori tra Anthony e Phil Jackson sono soltanto la punta dell'iceberg. Non dimentichiamoci di Derrick Rose, che appena una settimana fa era letteralmente scappato di New York senza avvisare nessuno prima di una partita, dichiarando poi presunti problemi familiari, per dichiarare poi il giorno seguente sia di aver pensato di abbandonare il basket, ma paradossalmente proponendosi per un nuovo contratto, sicuramente poco affidabile. Contemporaneamente non dimentichiamoci anche della pessima e svogliata stagione di Noah, almeno fino adesso, probabilmente appagato da un contratto principesco firmato in estate. New York si trova in questo momento undicesima ad est con un record di 18 vittorie e 24 sconfitte, ma visto il calo tragico degli ultimi mesi è paradossalmente più facile sognare una rimonta dei Philadelphia 76ers tra le prime 8 che immaginarsi questi Knicks a lottare per i playoff, almeno che non cambi qualcosa. Chicago invece occupa precisamente l'ottavo posto al momento e probabilmente sfruttando le individualità potrebbe anche sperare di mantenerlo. Certo è necessario vedere se anche qui cambierà qualcosa, se qualcuno andrà via, vedi Jimmy Butler, oppure chi entrerà nel mercato di stagione eventualmente. Ad ovest invece ottava piazza momentaneamente occupata dai Denver Nuggets di Danilo Gallinari e soprattutto di un Nikola Jokic che sta veramente giocando in modo divino ultimamente. La corsa è comunque aperta, ci sono i Minnesota Timberwolves che appaiono in forte ripresa e che forse stanno finalmente trovando gli equilibri giusti con un Ricky Rubio che sembra aver iniziato a girare come il collante perfetto per la triade di potenziali stelle Wiggins, Towns e LaVine. Ci sono i Portland Trail Blazers di McCallum e di Lillard, c'è DeMarcus Cousins e i Sacramento Kings, ammesso che DeMarcus Cousins resti, visto che questa è un'altra squadra al centro di possibili discussioni di mercato e probabili trasformazioni. Potenzialmente potrebbero ancora farcela raggiungere i playoff anche i giovanissimi Acerbi Lakers, visto che comunque la coda sotto i primi 7 posti, che sembrano più o meno tutti già predestinati ai playoff in questo momento, è comunque formata da una serie di squadre che abbiamo appena citato piuttosto vicine. Emergono ad ovest, oltre a Houston, sorpresa conclamata in quanto terza forza assoluta della Lega come record, i bipolari Memphis Grizzlies, che sono stati scavalcati dai granitici e coerenti Utah Jazz, due squadre che per un motivo o per un altro, l'imprevedibilità di Memphis e la concretezza di Utah, potrebbero anche dare fastidio a qualche grande in ottica playoff. Siamo praticamente arrivati a metà stagione e proviamo quindi a fare un giochino, ad avventurarci nel Mid-Season Award. Vediamo un po' chi sono, considerando gli award di fine stagione, i vincitori di questa prima metà di campionato. Most Valuable Player MVP, il miglior giocatore, al momento è scontata la lotta tra Russell Westbrook e James Harden. Se il fenomeno di OKC continua a viaggiare con una tripla doppia per allacciata di scarpe, la lancetta pende però lievemente verso il barbone di Houston. La ragione è essenzialmente per i risultati di squadra. Houston, come abbiamo già ampiamente detto, rappresenta indubbiamente la vera sorpresa di questa prima parte di stagione. Al momento OKC per la verità occupa il sesto posto ad ovest e, considerando la partenza estiva di Durant, sembra già un ottimo risultato quello di chiudere la prima metà di stagione dentro una potenziale griglia playoff. Di fatto però, per quanto Westbrook sia indispensabile nell'economia della squadra, diciamo anche troppo, contrariamente a quello che le statistiche suggeriscono, il giocatore tende troppo ad isolarsi e a forzare nei momenti decisivi, sentendosi uomo solo al comando. Harden invece, con la cura d'Antoni, ha guadagnato tantissimo in altruismo e dal momento è il primo assist man della Lega. Non viaggerà per poco ad una tripla doppia di media, ma indubbiamente sta rendendo migliori compagni, quindi a mio avviso in questo momento l'MVP della prima metà di stagione è lui. Most Improved Player, il giocatore più migliorato. Nel suo anno da rookie chiuse poco sotto i 7 punti e 5 rimbalzi di media. Nel secondo anno con 12 punti e quasi 7 rimbalzi di media. Lo scorso anno con praticamente 17 punti, 7 rimbalzi e 4 assist per allacciata di scarpe. Ad ora invece Giannis Antetokounmpo si sta mantenendo su una media di 23.4 punti per gara, quasi 9 rimbalzi, quasi 6 assist e una sicurezza in campo invidiabile. È lui a mio avviso il più progredito, anzi lui è già una delle star più brillanti nel firmamento della Lega. Defensive Player of the Year, il difensore dell'anno. Lo scorso anno arrivò secondo in questa speciale categoria. Quest'anno non si può non considerare anche nella fase difensiva l'importanza di Draymond Green nella squadra con il miglior record della Lega, i Golden State Warriors. L'aggiunta di Durant come prima opzione offensiva può avergli tolto delle responsabilità nel lato più spettacolare del gioco, ma il bad boy dei Warriors compensa con il gioco sporco e la difesa, mantenendo il suo ruolo di giocatore chiave nello scacchiere degli Warriors. Duro, a volte sopra le righe, spesso detentore però di attributi infiniti quando la palla scotta anche in fase offensiva, per me il difensore dell'anno al momento è lui. Non me ne voglia Kawhi Leonard, provate a chiedere qualcosa a LeBron James, che ha avuto modo di scontrarsi in tutti i sensi con il nostro Draymond Green qualche sera fa. Rookie of the Year, il miglior esordiente dell'anno. Un solo nome obbligato, Joel Embiid. Uomo franchigia con meno di 30 minuti di media di impiego a partita. Ne abbiamo già parlato ampiamente anche in questa puntata. Pensate solo se Simmons non si fosse infortunato in preseason e avesse confermato le aspettative che ne avevano fatto la prima scelta assoluta dell'ultimo draft. Sarebbe stata probabilmente una lotta a due made in Philadelphia per questo titolo. Simmons per adesso non ha messo piede in campo, probabilmente in questa stagione non giocherà. Rookie of the Year, a mio avviso, già dichiarato, Joel Embiid. Coach of the Year, l'allenatore dell'anno. A mio avviso Mike D'Antoni, solo ed esclusivamente per come ha trasformato James Harden in playmaker a servizio di una squadra che sulla carta, a meno a mio avviso non smetterò mai di dirlo, era ai limiti di tolleranza per i playoff. Un lavoro geniale dell'ex giocatore di Milano, rivoluzionato il gioco di Houston. Houston, ripetiamolo, è la terza squadra come record di tutta la Lega. Gran parte del merito sta proprio nelle trasformazioni operate da Mike D'Antoni, necessariamente a mio avviso per il momento Coach of the Year. Sixth Man of the Year, chiudiamo, il sesto uomo dell'anno, cioè quel giocatore che non parte in quintetto ma ha il maggior numero di importanza all'interno di una squadra partendo appunto dalla panchina. Restiamo ad Houston. Avete presente Eric Gordon? Benissimo, questo giocatore che esce tutte le partite dalla panchina di D'Antoni sta tirando con una percentuale da 3 punti superiore a quella di Stephen Curry. Viaggia con 18 punti di media partita. È un giocatore chiave per una delle squadre, come ripetiamo, tra le migliori della Lega. Senza dubbio, ad ora, il sesto uomo dell'anno è lui. Benissimo, abbiamo sforato i 15 minuti, ma oramai non è una novità. Stavolta attentiamo ai 20, anzi li stiamo superando. Colgo l'occasione per dirvi che in questa puntata ovviamente non si discute della partita Oklahoma City Thunder contro Golden State Warriors, perché accadrà stanotte. Noi stiamo registrando ed è mercoledì pomeriggio, come tutte le volte. Questa puntata invece voi la sentirete in streaming su Radio Big World alle 21.30 giovedì sera. Da venerdì mattina la troverete nel canale YouTube di Belli 13 e nel SoundCloud di Radio Big World, scaricabile o ascoltabile in podcast. Nel nostro blog medium.com/NBA Week, a partire da venerdì mattina, saranno linkate entrambe le possibilità di ascolto con i video principali della settimana, se volete riguardarvele. Non discuteremo neanche, come avrete visto, del starting five dello Star Game Ventura, semplicemente perché verrà reso noto domani. Ne parleremo nella prossima puntata. Ci dispiace per il ritardo, però ci sono obblighi di giorni precisi per la registrazione e per la messa in onda della trasmissione. Grazie ancora una volta per l'ascolto. A risentirci la prossima settimana con NBA Week.